dove c'è scritto Pastor Manelli, questo. Allora, sì, quando siamo l'altra volta tra l'altro era aperto, ora è domenica, è lì che campeggia all'entrata la statua, ma chiaramente la statua è quello che c'è ancora, però insomma, come detto precedentemente, sono anche altri lavori fatti da uno dei più collusi scultori del fascismo. Questa statua era intesa come parte di un intero insieme di statue composte da 6 figure destinate a un monumento a caduti dell'esercito coloniale italiano a Addis Abeba. Quando però fu ultimata la statua, il regime italiano, la fiorentina italiana era già caduta, era finita la seconda guerra mondiale e quindi c'era stata la perdita della colonia, cioè era finita. Era il 1941, c'era stata la perdita della colonia in seguito allo scoppio della seconda guerra mondiale. Solo anni dopo, nel 1952, il governo italiano decise comunque di erigere, come si è detto prima lì in piazza di Borgo Ogni Santi, il monumento a Siracusa in Sicilia. La scelta aveva il significato simbolico perché il porto di Siracusa fu estremamente importante per la conquista dell'Etiopia. E come si è detto, il monumento, mi sono sbagliato prima, ho detto 57, ma in realtà fu realizzato nel 1963. Quindi insomma 63. Quindi proprio, cioè, no nel periodo fascista. Quindi insomma, quando si parla di rimosso coloniale e di storia falsificata e di non aver mai fatto conti su quello, con quello che è stato il colonialismo italiano e conseguentemente il fascismo italiano, questa è proprio un'esemplificazione, si parla del 63 sostanzialmente. Ed è, questa è la foto della statua. Gli Ascari erano appunto i collaborazionisti, diciamo, erano abitanti delle colonie italiane e l'Africa orientale che prestavano servizio nell'esercito coloniale italiano. Inoltre, appunto, hai detto, la biografia di Romanelli è strettamente legata allo sfruttamento coloniale italiano. Prima abbiamo accennato al fatto che aveva possedimenti in Africa, in Somalia in questo caso, successivamente anche alla caduta del regime fascista e quindi dell'Africa orientale italiana, ma fece parte anche dell'esercito italiano che invase la Libia nel 1911-1912 e successivamente, dopo la fine di questa guerra d'aggressione italiana alla Libia, affiancò il mestiere, tra virgolette, di scultore a quello di agricoltore e conseguentemente di colonizzatore.